Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Puntata numero 40 e siamo qua barricati dietro tavole originali, volumi originali di BD francese, specifichiamo, perché l'ospite di oggi è Cinzia Di Felice, disegnatrice. Stavo già sbagliando il termine così, proprio cannare sul disegnatrice. Per il fumetto francese principalmente, questo è uno dei delle questioni interessanti di poter scoprire artisti molto nostrani. Sei venuta in realtà non da Torino città, da fuori Torino, ma comunque un'artista piemontese di talento, attiva da alcuni anni, non troppi. No, abbastanza. No, da alcuni anni, non si dice troppo. Poi devi essere più vicino al microfono però. E quindi la possibilità, bello di questo programma, ciò che mi piace fare su queste frequenze digitali di Radio Archimede, è far raccontare molti autori di talento non conosciuti da noi. Nel nostro caso tu sei una matita in fuga. Sì, e non un cervello in fuga, perché poi è brutta come definizione. Però tu principalmente lavori per il mercato francese. Oui. Pur non parlando la lingua. Possibile. Un pochino, sei appena stata anche a delle fiere, nonostante tutto. Tu, quando qualcuno ti chiede qualcosa, tu disegni. Bonjour, bonsoir, e poi via con l'inglese. Loro si mettono le mani in testa e però ce la fanno. L'orgoglio nazionale francese. Piegato. È piegato. Bene, bisogna far così. Arrivare subdoli oltre Alpe e poi non parlare la lingua. Mi pare però tu ti riesca a esprimere molto molto bene. Chi ci vede in webcam, siamo trincerati effettivamente dietro delle bellissime tavole originali. Infatti eravamo 3 minuti in ritardo, ho dovuto interrompere la visione di qualcosa che oggettivamente non potete vederli. Poi al massimo alziamo la webcam, però io non mi permetto, sfoglio solo e vedo che qui c'è una ricchezza, una quantità di lavoro importante. Una singola tavola quanto ti richiede? Ma minimo, di media 16 ore, minimo. Ok. Poi magari c'è quella lievemente più veloce, quella molto più lenta, tipo ce n'è una un po' più avanti dove... Questo è un progetto nato come fusione di due storie diverse, Oliver Twist e Peter Pan. Quindi ok, c'è anche un intento narrativo un po' particolare, le chiamano ucronie o qualcosa del genere. Ok, o mashup. Vabbè, le parole tanto... Solo questa robina qua, che è un hotel reale di Londra che esiste, preso da appunto foto d'archivio dell'800. Possiamo alzare e far vedere con delicatezza, però... Sì, ma non sono di carta velina. Vabbè, però io le tavole originali ho sempre una certa soggezione, perché la quantità di... Non si vede, più su? Ok, Filippo si vede? Non si vede? Più su? Alziamo? Prego, prego. Facciamo una scenetta molto buffa, molto inutile per chi ci sentirà poi in podcast, però Filippo ha annuito, dalla regia ha annuito, quindi di per sé, ma io volevo condividere, perché di per sé raccontare la difficoltà di parlare di fumetto in radio è sempre un po' che si vedi. Può far vedere poco. Abbiamo la webcam, che è uno strumento di metà, però questo immagini che andranno perdute nella pioggia, come nel finale di Blade Runner, perdute nella pioggia la trasmissione delle immagini, le tavole in sé, invece questo specifico progetto è quello di cui magari approfondiamo dopo, che sta nascendo sotto forma di crowdfunding. Esatto, con un editore belga di origine, però è un editore che si è inventato in forma particolare appunto. Ok, del crowdfunding in sé poi torniamo, ed è un meccanismo che ci permette di stare molto sul pezzo, perché è una delle novità della produzione del fumetto, che permette di sopperire a limiti distributivi di raggiungimento del pubblico tramite un contatto diretto, e questo è interessante, siamo molto sul pezzo. Però a me colpisce, c'è una ricchezza qui dentro, ogni singola vignetta potrebbe di per sé essere un'immagine da sola. È difficile ritagliare, andare a scegliere un angolo, tagliare via qualcosa? E diventa un po' un problema per chi si occupa di fare testo, balloon e via dicendo, che abbiamo deciso di che lascio stare io, nel senso lo fa qualcun altro. Io ho sempre preferito lavorare su tutta la tavola e poi andare a incollare sopra le nuvolette. Ok, i balloon, sì. E adesso c'è una ragazza che si occupa di fare questa parte qua, tra l'altro che è nata come finanziatrice, nel senso era una persona qualunque, ha detto ma io sono brava a usare Photoshop, quasi quasi, e allora abbiamo tirata dentro a fare questa cosa, lei fa, si occupa di fare i balloon. E lei ogni tanto mi dice: ma io dove li metto adesso questi balloni? Ma dove li metto? Io le lascio le aree che secondo me potrebbero occupate, però poi lei ogni tanto mi guarda. Alla mi fine però... il fumetto stesso è l'imitazione dell'estro. Cioè, se tu vuoi raccontare una storia per immagini, devi comunque costringerti. Questo è un limite tecnico, lasciare lo spazio per i... è un linguaggio. Per il testo, però anche lo stesso... Non puoi disegnare in ogni vignetta esattamente quello che ti verrebbe, devi fare qualcosa che si costruisca all'interno della storia. Non ho capito la domanda. La rifaccio. Stiamo sul semplice. Tu sì, non puoi. No, comunque di per sé ogni singola vignetta deve funzionare nell'insieme. Certo. Se tu fai una vignetta bellissima, che però non ha a che fare con l'intera tavola, rovina l'intera tavola. Eh beh, sì. Oh, puoi spararti le pose per dire io ho fatto la vignetta più bella dell'universo, però poi se non ci azzecca niente o se è discontinuo rispetto alla narrazione. Certo, è tutto, è un insieme, non è solo un disegno. Cioè, in effetti è padronare un linguaggio. Esatto. Riuscire a portare elementi lì dove sì, il disegno serve, la storia serve, ma nell'insieme delle due devi ancora decidere i tagli, le inquadrature, gli angoli. È una funzione registica alla fine, esatto, con dei limiti tecnici, per cui non hai lo scorrimento temporale, non hai... Io spesso mi trovo in sceneggiature delle cose tipo il personaggio si volta lentamente, alza lo sguardo al cielo, e tu questo lentamente o velocemente o all'improvviso succede qualcosa è sempre un po'... Questi sceneggiatori che scrivono quelle cose probabilmente si manifesta Alan Moore e li strozza con la barba. Vedono un film e ti raccontano quello che vedono. Poi questo tu, è un problema, da quel film che vedi devi raccontare qualcos'altro, cioè devi sintetizzare... cercando di arrivare lì dove vogliono loro, dove ti hanno chiesto loro, ma alla fine ci devi mettere un qualcosa di diverso perché non puoi, non c'è il tempo nella tavola. Ma c'è infatti pare che la vignetta più sbagliata di tutti sia il personaggio tale si siede. Sì. Come fai a mostrare una vignetta? O sei in piedi o sei lì a metà, ma voglio dire, ci sono anche delle mini sequenze. Io spesso la uso questa cosa, faccio delle mini sequenze. Io, tutti penso, la usiamo. Però anche lì devi avere sufficiente spazio nella tavola, sì. Sono tutta una serie di... Dipende sempre da quanto anche la storia è concentrata, a volte capita che parti con un progetto meraviglioso che puoi spalmare su 5-6 volumi e poi ti trovi l'editore che ti dice no, facciamone due, se non uno, come mi è capitato con la seconda delle mie cioè delle mie produzioni, nel senso dei libri che ho scritto da me. Che era pensata in due volumi, poi no, facciamola pure in una, e quindi ti trovi a dover tagliare, condensare, strizzare tutto quello che riesci a strizzare in meno spazio, perché quello è l'editore ti dà, e se non hai abbastanza potere contrattuale, se non si fida, se non sei famoso, e quindi meglio non rischiare, voilà, lì ti trovi e li fai. E qui, più di ogni altro, ancora in questo serve la tecnica, puoi avere tutta la... Te la devi un po'... Niente, tranquillo. No, ma non patisce. No, però le tavole originali vanno trattate con la giusta sacralità. Sì, mi hanno sgridato perché addirittura le portavo senza plastica, senza niente, allora mi hanno detto di tutti i colori, a colori, quelle originali. Mi hanno detto di tutti i colori, ho detto vabbè, questa cosa non la faccio più, plastichine sacre e via. Poco rispetto della tua arte qui. Ce l'ho sotto mano tutti i giorni. Ok, sì, vabbè. Però, cioè, 16 ore, cioè, tanta esperienza, poi ho postato su Facebook per annunciare la tua presenza alcune tue tavole prese dal tuo sito cinziadifelice.it. Sì, purtroppo quello è proprio archivio. Il punto è quello che, come ogni buon artista, tu comunque ti sei evoluta tanto, quindi non necessariamente quello che c'è in questo momento sul tuo sito rispecchia come disegni adesso. Assolutamente, l'evoluzione la vedi da un giorno all'altro, nel senso che se non smetti di fare cose, la cosa che hai fatto adesso è sempre migliore di quella che hai fatto ieri, e con quella che hai fatto 2 mesi fa non c'è paragone, con quella che farai tra 6 mesi c'è di mezzo l'oceano indiano. Esatto, e quindi... Io la vedo così, nel senso io quando guardo le cose anche solo della settimana scorsa dico certo che potevamo farla un po' meglio, Quindi sei troppo critica nei confronti di te stessa, numero uno, numero due, sminuisci la tua arte. Qui, no, qui già non va bene, non va bene. No, però è naturale, perché quando inizi a fare una cosa e la finisci, sei al massimo dei 70.000 cieli, perché ti sembra di non aver mai potuto fare una cosa così bella. Poi però ne fai un'altra, quella che fai subito dopo, la pagina dopo, ti richiede uno sforzo immenso per ripartire, perché parti da zero. Però una volta che l'hai fatta finita dici, questo è il mio top, questo non posso andare oltre questo livello. E poi c'hai l'altra ancora da fare, perché non è mai finita. È un percorso complicato, nel senso, autoanalisi. Ma io l'ho sempre vista questa cosa. Poi addirittura quando ci sono delle cose veramente arcaiche che hai fatto 15-20 anni fa, cioè, a quel punto lì ti fermi e dici, no vabbè, io in effetti lì ero bravina. Ci vuole un 15-20 anni, sì, però. Sì, con quella sedimentazione lì, nonostante che sai che adesso il livello che hai è un altro, perché non dico migliore, ma comunque un altro, riconosci che all'epoca hai fatto comunque un lavoro discreto, ecco, non demolisci più, a un certo punto smetti di demolire. Infatti chi dà un'occhiata alla pagina Facebook di Sono Sono Volette, per caso oggi ci stesse ascoltando senza aver visto il post su Facebook, può vedere che comunque sono bellissime le illustrazioni, bellissime tavole quelle. Grazie. Posso dire anche che queste mi colpiscono parecchio. Approfondiamo ancora poi, dopo la prima canzone, le modalità, la tecnica e anche questa nuova modalità per proporsi ai lettori direttamente, che è il crowdfunding. La prima canzone, sempre un pezzo che non c'era, il pezzo che avevo pensato non c'era su Spotify, e quindi questo è molto grave. Abbiamo anche scoperto che i King Crimson non ci sono su Spotify, quindi Tempora Mores. Che cosa è successo? Robert Fripp non ha concesso i diritti per i King Crimson, e quindi ci saranno delle persone che non sentiranno i King Crimson. Questo non va bene. Quindi ci accontentiamo, tra virgolette, ci accontentiamo dei Pink Floyd e con Interstellar Overdrive. We'll be right back. Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. E in non overdrive interstellare, poi li abbiamo sfumati perché questi ragazzi inglesi stavano svisando, stavano un po' sbracando, scusate Pink Floyd, ma qui sulle onde digitali di Radio Archimede stiamo dialogando, chiacchierando con delle bellissime tavole originali che io ho sempre un po' di soggezione a toccare nonostante siano in un raccoglitore, le tavole originali del progetto Oliver e Peter di Cinzia Di Felice, che è qui l'ospite di oggi con noi. Oliver e Peter è un incontro, c'è un elemento di reinvenzione di due classici della letteratura, sì, ho capito bene, sì. Che sono Oliver Twist e immagino Peter Pan. Esatto. E chiacchieravamo fuori onda sul fatto che tu hai una padronanza tale della tecnica che hai aggiustato un po' lo stile e in questo caso dovendo raccontare una storia di ambientazione vittoriana con elementi realistici eccetera hai cercato questo segno che magari in altri stili vai più sul fantastico, sul surreale. Sì, no, la mia provenienza era puramente fantasy, proprio tipicamente fantasy, e per me fantasy vuol dire 100% inventato. Ok, okay. 100% lo dico io. Invenzione di ogni singolo albero, ogni singolo ramo. Sì, ma anche la casetta me la faccio come voglio io, il castellino me lo faccio come voglio io, il draghetto gli metto quante scagliette voglio io, insomma è una roba completamente autogestita, senza aver bisogno di andare a chiedere come si fa quello, come si fa quell'altro. La sfida per questo progetto nuovo invece è stato adeguarsi a... anche più di realistico, ecco, c'è un po' più di ricerca sulle foto, sulle ambientazioni d'epoca, sui materiali e via dicendo, perché devi essere un pelino più aderente a quella che è la realtà. Certo, certo, anche perché probabilmente essendoci l'elemento fantastico, che immagino ci sia perché essendo legato a Peter Pan, è il calare all'interno del contesto più realistico possibile arricchisce la suggestione. Sì, sì, sì. Anche se qua, quando si capisce che Peter Pan è davvero Peter Pan, siamo già avanti con la storia. Ah, quindi... ok. Abbiamo spoilerato, quindi. No. Nel senso che, alla fine il personaggio tira fuori le sue caratteristiche, per cui quello è. Okay, lo vedi solo facendo flip sul book. Cioè scorri le pagine, lo vedi che poi alla fine vola Peter Pan. Però... C'è questa tendenza comunque del fumetto francese, della BD, la bande dessinée, a lavorare sulla reinvenzione dei classici, c'è molto fumetto storico, c'è molto, forse più che in Italia. Ma sì, in generale proprio come concetto del fumetto, quella lì è la patria del fumetto, franco-belga, tutta l'area franco-belga, il fumetto è considerato un prodotto culturale, te l'avranno detto tutti quelli che sono venuti qua, nel senso sì. Più che altro io cerco sempre di andare al netto, non voglio dipingere certe cose come mecche irraggiungibili, no, il punto è che è un mercato molto diverso, è più ricco, più in grado di digerire, per dirla in termini pane al pane, opere più artisticamente più ambiziose. Vengono sostenute, ambiziose. Vengono richieste, vengono proprio cercate anche dal pubblico, quindi cioè l'utenza è la prima che ti chiede, e se c'è l'utenza c'è anche la produzione, proprio va da sé, anche se adesso non è più quella mecca dorata che era qualche anno fa, perché anche lì c'è stata crisi e controcrisi e c'è troppa roba, in effetti tutti si stanno un po' spaventando delle cifre di produzione, perché sono veramente esagerate, non ti vedono più, c'è troppa roba, è come cercare di tirar fuori la paglia dal pagliaio, cioè il filetto di paglia ormai non ce la fa più a emergere, se c'è un pagliaio immenso intorno. Ecco. Quasi sempre le industrie culturali sane vanno a finire di essere un po' ingolfate di sovrapproduzione, allora a quel punto lì per emergere... Esatto. Ci vuole proprio la mega distribuzione, quella che ti fa diventare capillare, e succede solo con le grandi case editrici, e la permanenza nei negozi, cioè le librerie che hanno tutte il settore fumetto, oppure le fumetterie sono anche lì, è come il pane, via uno fuori l'altro, quindi se non hai abbastanza incisività, perché la gente ti cerca e sei famosa eccetera, stai lì, rischi di mandare gli scatoloni agli gli editori mandano tramite i distributori gli scatoloni di roba, e che non vengono neanche aperti, vengono rimandati via perché non c'è lo spazio fisico dove infilare i libri. Esatto. Quindi è un po' un problema di quel tipo di sovrapproduzione, e quindi si spera che a un certo punto, se riesci a farti notare, uno cerca di puntare sulla qualità. Lì purtroppo è vero che c'è tutto, ma c'è anche il bello e il brutto, insomma, c'è qualunque cosa, la cosa di qualità e la cosa di un po' meno qualità. C'è tanta competizione, quello senz'altro, sì, sì. Come in tutte le situazioni, esatto. Le industrie più mature. Sì, sì, sì, è proprio... c'è tanta roba, esatto, con 3D. Esatto. E secondo me, sai cos'è? La cosa più difficile per noi di capire il mercato francese è che ne arriva molto poco della produzione francese in Italia. Sì, e questo è il motivo per cui si creano anche le leggende. Quando si sa poco di qualcosa, quasi sempre... Sì, bisogna fare lo sforzino di tradurre, perlomeno, se non siamo in grado di leggere, o se non ci abbiamo voglia di leggere il materiale francese, ci vorrebbero gli editori che lo traducono. Qualcosa c'è, qualcosa c'è stato, qualcosa si spera ci sarà, però rimane molto, molto legato al botto clamoroso, ma neanche sì. Quello ho detto che basti, nel senso no, neanche quello, perché poi di per sé in questo momento il fumetto tradotto dall'estero è quello americano, perché gode di una presenza multimediale, quasi sempre i personaggi esistono su altri medium, sì. E poi è più è stato più accettato perché è più simile a quella che è la produzione italiana nostrana, sì. È il fumettino di poche pagine, 30 pagine americano del supereroe, magari qua ce la fa a essere venduto, sì. Il cartonato di 46 tavole, colore, tutto quanto, che costa in proporzione a 1,80 euro di qualunque fumettino che trovi in edicola, ti costa 10 volte tanto, non è detto che tanti italiani siano così contenti di comprarseli, insomma. Ma infatti il problema quasi sempre è che un bidet in senso stretto, che significa un cartonato di una cinquantina pagine grande formato a colori, è come linguaggio qualcosa di molto diverso da un Olbo Bonelli, ed è questa la cosa. Poi c'è anche questa situazione per cui la Bonelli, avendo costruito questa posizione sul mercato, mette in edicola dei fumetti con tanto lavoro, tanto professionismo dietro, a prezzi molto bassi, e quindi la percezione del valore è diversa. Sì, ma è proprio una struttura diversa, una struttura narrativa anche diversa. Queste storie qua, dicevi tu, del bidet, hanno una serialità anche quelle. Ci sono serie che vanno avanti da 10-15 anni, però magari vedi un libro l'anno, non un libro al mese. Certo. Perché la produzione è più lenta, si basa sul lavoro autoriale, quindi c'è un autore solo che fa i disegni, se va bene se li colora anche, se no c'è qualcun altro che li colora, e quindi il prodotto è più lungo, proprio più lungo da produrre. La stessa tavola, l'unità di base del fumetto no, al di là della vignetta, però la serie di vignette compongono la pagina che è la tavola. Nel lessico specialistico che qua spesso usiamo, ma ogni tanto cerco ancora di spiegare per non diventare qualcosa per iniziati. È diversa, ci sono più vignette. Sì, non è solo più grande, sì, ha più file. No, nel senso che lì dipende. E lì per me, non so se ci sono delle case editrici che impongono particolari regole, però per me lì va proprio a espressione personale. Okay. Gli americani sfondano le vignette, le non esistono più. Cioè non, noi italiani tendiamo a rimanere su degli schemi più fissi, non so bene il perché, se qualcuno se l'ha spiegato sarebbe interessante da capire. Beh, sì, a volte il punto è che nel momento in cui tu hai un lettore fisso, soprattutto poi nelle grandi proporzioni, nelle grandi tirature della Bonelli, adesso sto parlando di mercato, non è che c'è un po' uno sport nazionale quasi sempre in Italia prenderselo con certe posizioni di mercato dominanti, cioè la Bonelli è la storia del fumetto italiano e esiste, se tante persone hanno fatto i professionisti è grazie alla Bonelli, non vorrei che sfuggisse questo dettaglio. Il punto è che chiaramente dovendo raggiungere quel pubblico che non è uno specialista di disegni, vuole una buona storia alla settimana, conoscere il personaggio, quindi a quel punto lì tu devi dare una fruizione più invisibile possibile. Quindi ha trovato una si è trovato nel tempo qualcosa che poi adesso stanno lavorando, lo stesso Orfani di Recchioni e Uzzeo stanno cambiando, e già il fatto stesso che sia un Bonelli idea colori è già una novità, sì, esatto, certo. Poi stanno cambiando il formato della gabbia, hanno fatto splash page, stanno facendo però sì. Sono sperimentazioni, mm-hmm. e di per sé invece il fumetto francese mainstream, questa è sempre la parola un po' complicata, il fumetto della principale presenza sul mercato, quello mainstream invece è tutt'altro, è fumetto storico, fumetto fantasy di grandi dimensioni a colori sì ma di tutti i tipi, adesso storico non fantasy solo, era più o meno la mia esatto fantasy, questo è l'errore, la questo è un errore. Allora, ho appena detto una cosa sbagliata, perché un mercato grande ha tutta una serie di sfumature, c'è tanto fumetto umoristico che noi non vediamo. Assolutamente, sì. Fumetto per l'infanzia, porno dappertutto, okay. Il filone erotico, quello lì non morirà mai. Esatto. E vabbè, è come pensare all'industria del cinema, non è che c'è un genere solo di film, ci sono i blockbuster, ma ci sono anche i film d'autore, tutti i generi, vengono coperti tutti i generi perché c'è... viene toccata tutta l'audience. Sì. È bellissimo vedere nelle librerie la nonnina che va a comprare il fumetto per se stessa, oppure per i nipotini, oppure per i figli, okay. Anche per se stessa. Quindi parlare di fumetto francese pensando che sia una cosa uniforme e canonizzata no. È una stupidata. No, per è una semplificazione. Una semplificazione. C'è di tutto, è proprio okay. Di tutto, la qualunque. Okay. Ce n'è per tutti i gusti, tutte le tasche. Tasche magari non tanto, perché sono più o meno sempre tutti su una fascia rispetto a quello che vediamo noi in Italia, medio-alta di spesa. Però la fanno fruttare, nel senso che si è costruito quel tipo di utenza lì e di mercato lì. Condizioni socio-economiche che hanno portato a quello, però non volevo usare paroloni. Mi piace raccontare, cercare di rendere accessibile, comunque dar modo di raccontare artisti come te. Artisti o artiste? Questo è sempre... artiste come te. Gente che ci prova. Che ci riesce, che ci riesce. Beh, diciamo che il mio percorso personale mi ha portato in maniera spontanea e naturale verso quel tipo di situazione lì, non è che l'abbia cercata per una particolare passione mia, io non ne sapevo mezza, ma appunto ho fatto tre anni di assistenza, nel senso che ero l'assistente di un fumettista che lavorava per questo mercato, e quindi mi sono orientata in maniera naturale verso quella direzione lì. Avessi fatto l'assistente a qualcuno che lavorava per Bonelli, probabilmente sarei rimasta nel suolo patrio. Vabbè, però, ok, queste sono storie personali, a volte sono cose che qualcosa... una serie di eventi che vengono scatenati e poi succede. Sì, uno la vita se la vive, non è che esatto. Non è che se la rifiuta, poi ci sono le occasioni che si creano, alcune più interessanti di altre, treni che perdi, treni che prendi e voilà, poi alla fine vedi dove sei arrivato e decidi se è andata bene o meno. Esatto. Del tuo percorso professionale e poi della più recente sviluppo anche nell'ambito di contatto con i lettori, che è il crowdfunding, parliamo dopo la canzone. Però la canzone ci darà poi anche un gancio per parlare di questo fumettista ben preciso, che è stato un tuo maestro Jedi. mandiamo la prossima canzone dai Rolling Stones, che si intitola? Angie. Angel, when will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls. Thank you. Sono solo nuvolette. Dai fumetti al pop. Viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Prometto che oggi non citeremo il riferimento di questa sigla, non se ne parlerà, che Guerre Stellari, no, troppo tardi l'ho fatto. Ricordava qualcosa? Vagamente. Sì. Oramai mi prendono per i fondelli, i miei stessi ospiti la settimana scorsa, Francesco Bosco, giustamente diceva, non saresti riuscito a non parlare di Guerre Stellari, come la puntata con Manf, non saresti riuscito a non parlare di Doctor Who. E succede, siamo nerd, succedono queste cose qua. E invece parlavamo del, citiamo, menzione d'onore per uno che, di quelli che è probabilmente uno dei più importanti autori di fumetti, Bede, fumetti Bede in Piemonte, a Torino, che adesso è scappato in Toscana, però ce lo siamo persi, sì. Che è Massimiliano Max Frezzato, sì. L'autore dei Custodi del Maser. I tuoi primi passi e il fatto che tu sia viva nonostante tutto la dice lunga sono stati come assistente di Max Frezzato. Sì, tre anni di scuola IED a Torino, corso illustrazione, dove abbiamo avuto lui come insegnante per 3 mesi, questo 3 ritorna stranamente, okay. E poi 3 anni di assistentato da lui, perché lui ha sempre lavorato con assistenti, quindi volentieri propose e io volentieri accettai. Ok. E quindi questa canzone era dedicata a lui, perché fu uno strumento di tortura all'epoca. La canzoncina Angie, registrata 14 volte su una musicassetta e mandata in continuazione, fronte retro, lato A, lato B, per dei pomeriggi interminabili, dove appunto andavo lì a casa sua a disegnare. C'è un briciolo di perversione in questo. C'era stato del sadismo, era sadismo, gli piaceva, infatti, la canzone, ma credo che mi sia rotolata fuori dall'orecchio per degli anni. Sì, ma infatti è così. E quindi poi sei fuggita a Orlando e sei diventata addirittura autrice unica, si sei occupata anche dei testi. No, questo perché questo Draken... è una raccolta, sì, questo, di tue storie. Ho portato la versione tedesca perché era più, okay, leggera di quella francese. Ma va bene, nessun problema. Sono due. Lo storytelling di per sé è un discorso unico di disegnatore, di sceneggiatore, quindi è un passaggio naturale dedicarti anche all'ideazione delle storie e alla narrazione stessa. Io non c'ho visto nessun tipo di frattura, ok, nel senso che è come dire, devo fare una statua col pongo, devo imparare a usare il pongo, cioè devo modellare sto pongo. Quella è la materia, quella è la modalità. Poi io non so se comunque nel lavorare con Max, fargli l'assistente quei 3 anni lì, ho assorbito quella parte lì più di altre, perché ti dicevo che sul disegno non ho mai avuto questa gran formazione. Non arrivando da studi artistici precedenti, dicevo, io ho fatto informatica, quindi resettando poi tutto alla fine del quinto anno. E quindi quando ho iniziato a fare questa scuola per illustratori, una delle materie era anche disegno, ma non era la principale, non era quella su cui si è perso troppo tempo. Quindi alla fine sul fronte disegno puro e semplice, la linea pura, era un po' indietro, ecco, rispetto a quello che doveva essere un livello professionale. Quindi me lo sono un po' portato avanti e sviluppato negli anni. Invece c'è l'elemento di colorazione, che è stato invece subito uno degli elementi. Su quello invece era un mio punto forte naturale, nel senso che su quello non mi sono mai sentita timida, ecco. Okay. Ho sempre sperimentato e buttato assieme cose, e quella era stata poi il motivo per cui ero apparso interessante all'epoca a Massimiliano, perché avevo una gestione del colore che gli piaceva. Certo. E infatti con lui poi avevo lavorato principalmente su colorare i fondali, che lui disegnava, e poi andavo avanti a colorare io, e poi finiva lui con 2 tocchettini che ti facevano venire, non so, un pochino di fegato viola, perché dice, ma com'è possibile che con 2 tocchettini questa cosa che è normale diventa spaziale, cioè la cosa, il livello che cresce, con la mano del maestro. Con il colore c'è qualcosa, c'è una sensibilità che serve, che si sviluppa, non diversa dall'orecchio musicale, penso. Ma sì, secondo me sì, anche. Poi armonia, più più creazione di atmosfere. Sì, ma poi ti dico, secondo me è tutto molto molto molto soggettivo. C'è chi riesce a fare tutto col bianco e nero, per me è un genio, perché io non ci arrivo, io non sono capace, io ho bisogno di buttare 150 strati di roba prima di arrivare a fare una roba che mi piace. O chi lavora con l'acquarello, io ho un'invidia assoluta per chi riesce a padroneggiare queste tecniche, che sono semplice da un certo punto di vista, ma infinitamente più complicate, perché devi avere una gestione della tecnica che non permette errori, cioè devi essere perfetto. Certo. Io con questa mia tecnica layer, diciamo così, a strati, dove sbaglio vado avanti a correggere, posso anche incollare pezzi di cartone sopra, chi se ne frega, ma è importante che alla fine esca fuori il risultato che avevo in mente. Chi lavora per esempio con l'acquerello invece è una modalità di, e sto parlando di tecniche tradizionali, non a caso, perché io il computer non l'ho quasi mai usato, il digitale lo vedo col cannocchiale. L'utilizzo del termine layer fa pensare ai layer di Photoshop, sì. Nel tuo caso sono layer fisici, sì, sì. Vabbè, non è che non conosca in assoluto la materia, immagino. Però non è la mia, però insomma, non ci ho mai speso grandi energie nella formazione, e quindi la uso pochissimo, mi serve il giusto. Però secondo me chi riesce ad avere un'ottima formazione o una buona formazione, una decente formazione sulla tecnica fisica, poi sul Photoshop, se ci si dedica, viaggia sereno e felice. Certo, ma quello che diciamo spesso su queste frequenze è che la tecnica a monte, analogica, quasi sempre ti permette poi di padroneggiare anche quella digitale. Anche secondo me. Viceversa non è così scontato. Sì. Ma perché si forma quella cosa che dicevi tu prima, il gusto per gli equilibri, per i colori e tutto quanto. Sì, lo fai comunque anche con Photoshop, per carità, o con gli altri programmi, non è che li conosco. Però è più facile secondo me averli sotto controllo sulla carta e poi trasferirli su altre cose, perché quella è la mia formazione mentis, insomma. Bisogna giocare, e comunque bisogna cominciare giocando, penso. Devi osare, spingerti, far pasticci, e poi a quel punto lì impari tutta una serie di strade che... Sì. Poi sono sempre le occasioni che ti creano poi le strade, ti chiedono un lavoretto fatto così e cos'ha, e tu magari da quel lavoretto fatto così e cos'ha scopri che sei in grado di fare le cose colà e colì e su quello costruisci la tua cifra personale, cioè capitano queste cose. Oppure certo, uno è sempre stato invasato di pennarello scarico e con quella roba lì riesci a costruire una cosa che prima non c'era, quindi ti imponi, ti fai notare perché fai la cosa diversa dagli altri. Più difficile, ma può capitare. Che però, trattandosi di professione, poi a quel punto lì magari qualcuno, tutta una serie di, in un'industria culturale, chi cerca poi quel determinato effetto poi si viene a rivolgersi a te, se tu hai trovato quella possibilità di fare quell'effetto. Poi va da sé che se ti... soprattutto oggigiorno che c'è questa sovraesposizione mediatica fatta in casa, nel senso che basta caricare qualcosa sul computer o sul cellulare e voilà, sei sparato in mezzo al mondo, dopo che ti hanno visto e sei la novità, 30 secondi dopo ci sono 150.000 cloni, per cui è normale. Però tu lo fai intanto. Questa è una delle conseguenze, però intanto quando ti copiano, io dico sempre che quando c'è qualcun altro che ti copia, intanto però l'originale sei stato tu e quindi puoi sempre stare un passo avanti. Quindi puoi dimostrare che il secondo prima... No, non è questione di dimostrare, potrei avere altre idee migliori. Ah beh, potrei certo, avere altre sì, idee sì, migliori. Sì, e poi la creatività è una specie di stregoneria, come nella stagione della strega, il Bob Dylan inglese, il signor Donovan, cantava un po' di anni fa un pezzo che si chiamava Season of the Witch. When I look out my window, many sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. Must be the season of the witch, must be the season of the witch, yeah, must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Summer cat looking over Solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. Io qui ho un volantino che dice partecipé alla creazione des album BD de Demain. Mm-hmm. A parte il francese patafisico, un po' sporcato dal piemontese. Cinzia Di Felice, l'ospite di oggi con cui corriamo verso la fine del programma, ci vuoi parlare di questa sandawe.com, Sandawe.com che è una realtà di crowdfunding, ma è anche un editore. È un editore, sì, è un editore che ha iniziato 5 anni fa, giù di lì. Inventandosi, perché esisteva già il crowdfunding, ma applicandolo al fumetto. Quindi sono state una delle prime piattaforme autogestite, nel senso che si sono create la loro piattaforma. Okay. E hanno lanciato questo sistema di produzione, tutto da fermare ancora, quindi è tutto in movimento, definizione, tutto quanto, però particolare per chi è abituato a lavorare con l'editoria classica, diventa un po' scioccante approcciarsi a una cosa del genere. Perché tu non sai se il progetto partirà fino a un certo punto, fino a quando non raggiunge un budget minimo. Esatto, devono essere garantiti dei tetti di raccolta, perché sennò tanto vale, cioè, sennò rischi di iniziare una produzione e poi magari dovete fermare a metà perché non hai raggiunto la... oppure di avere delle produzioni che durano 10 anni perché non riesci a raccogliere il budget previsto, quindi diventa, e il budget in realtà è vincolato non tanto ai costi reali di produzione del libro, ma a tutto quello che ci ruota attorno come sistema di attrazione per i founders, come si chiamano, per i finanziatori, sì, perché certo. Vengono stabiliti dei palier, li chiamano, dei livelli di finanziamento, certo. E a ogni livello corrispondono dei regali, diciamo così. Esatto, quindi ognuno può decidere in che modo contribuire al progetto. E quindi hai dei benefit in ritorno, oltre a essere come si dice, quando hai dividi gli utili del... Ah, una compartecipazione. Esatto, grazie. sulle vendite, direi. L'editore non ci prende più niente, però quindi viene diviso tutto. È il mio problema, che ormai le terminologie che hanno a che fare con cercare di portare a casa la pagnotta mi sono diventate proprio... Voilà, acqua fresca. Acqua fresca. E quindi è interessante, per la cosa che ti dicevo prima, che è veramente straordinario questo sistema, che a me ha appassionato. Poi ci sono delle difficoltà immense, dei limiti notevoli, però anche delle soddisfazioni che non trovi da altre parti, perché c'è un dialogo molto fitto con gli utenti finali, che sarebbero i lettori, prima ancora che il libro ce l'abbiano in mano, perché proprio partecipano a tutto il processo di creazione e al processo di spiegazione di quel libro lì o progetto lì, perché è quello il succo dello scambio, e quello il modo per attrarne. È un po' come entrare nell'officina stessa dell'artista, nel senso... Sì. Un po' chiaramente deformata dal fatto che devi raggiungere un obiettivo, quindi tu fai del tuo meglio per presentarti al meglio, per dare il meglio di quello che puoi e inventarti soluzioni per interessare le persone. Ci manca solo più che l'autore di questo progetto, che è quello di cui parlavamo all'inizio, in realtà, okay. Oliver and Peter è un insegnante francese di inglese, okay. Per cui per fortuna riusciamo a parlarci in inglese, sans problème, quindi voilà, abbiamo la comunicazione diretta, ma poi è lui che si spupazza tutta la gestione, le public relations, esatto. Strettamente in francese. E ci manca solo più che si metta a fare cabaret, a raccontare barzellette nudo sul tavolo, e poi abbiamo fatto tutto, perché veramente si tratta di dare il meglio di sé, perché così hai l'interesse delle persone. Esatto. E tra l'altro, quasi sempre il crowdfunding ha un problema, che è bellissimo in teoria, poi però quando non avendo un'alta probabilità di fallimento, diciamolo statisticamente, tante volte è una bella ipotesi ma non ha un esito. In realtà il primo volume di questo progetto, di questa serie Oliver and Peter, ha raggiunto la soglia per essere finanziato, e lo stai disegnando. Sì, assolutamente, sì. E quindi ci sarà poi un'evoluzione, a quel punto quelli che vorranno contribuire al secondo e al terzo albo avranno, terzo volume, avranno già in testa che cosa è successo nel primo, quindi questo può essere un bene o un male. Sì, no, sicuramente un bene, perché a maggior ragione tu hai accattivato i lettori, vorranno seguire, vogliono concludere la storia, dai. Sì, no, è una situazione particolare per un disegnatore, perlomeno io, è quello che ho vissuto io, perché ti metti direttamente a contatto sia con altri disegnatori, perché ci sono altri progetti, non ce n'è uno solo, ci sono una ventina più o meno tutti insieme, mm-hmm. Che hanno tutti lo stesso obiettivo di raggiungere il proprio budget, e sia il contatto con i lettori, che diventano poi fan, veri e propri fan, proprio entusiasti. Okay. Lavoro ovviamente anche con un altro tipo di editore tradizionale, che è Claire de Lune, a progetti con cui sto lavorando insieme a un gruppo di autori italiani. Per fortuna c'è anche questa bella notizia che riusciamo a portare gli italiani che vanno a lavorare in Francia, e quindi... E questi autori italiani sono un trio di Padova, si chiama Day Job Studio, scusate. Okay. E anche lì c'è un fermento particolare, perché anche loro fanno autoproduzione in Italia e poi spingono per delle storie da pubblicare dove riescono, Francia, America. Ok. Quindi, per trovare questo crowdfunding, immagino sandawe.com, è scritto sì. sandawe.com, sì. E Oliver Peter, bisogna Oliver cercare. Oliver Peter, sì, esatto. Ok. I tue coordinate invece sono cinziadifelice.it, il sito web. Sì, è che veramente c'ha le ragnatele e la polvere da tirar via dagli scaffali, però è lì, è ancora lì, lo sto pagando e continua a stare lì. Ok. E invece tu stai anche collaborando, e sarà già la terza edizione di una manifestazione che si chiama Balloons e Balot. E Balot, sì. Questo è piemontesismo proprio puro. Sì, questa è è un'avventura anche lì improvvisata, nata dal nulla, però veramente divertente e soddisfacente. È due comuni sotto dove vivo io vivo in un piccolissimo paesino della Val Chiusella, vicino a Ivrea, e il sindaco di due paesini sotto si è inventato di fare una manifestazione che avesse a che fare con i fumetti, visto che abitavo due paesini sopra, e quindi è nata questa cosa che stiamo facendo verso maggio. Lanciamo queste due giornate, una giornata e mezzo, perché si tratta di fare un sabato sera e la domenica, dove ci siamo inventati di fare cose assurde, tipo una gara di corsa con giochi per cosplayer, oppure la comic battle che abbiamo shippato qua da Torino. In realtà abbiamo invitato l'Eris Edizioni, che la conduceva qua a Torino, e gli abbiamo chiesto di farcela su in valle, quindi e voilà. E poi cerchiamo di dare uno spazio a artisti locali, meno locali, insomma, chi c'ha voglia di partecipare a questa giornata di festa del paese, insomma. Ok. Pagina Facebook di questa manifestazione? Balloons e Balot, scritto con due L, due O, e la E commerciale. Perfetto. Direi null'altro. Ti avevo promesso di chiudere 5 minuti prima per questioni logistiche. Esatto, per questioni logistiche. Quindi, se sono solo nuvolette, chiude qui con l'ultima canzone. Dopo tutto questo svisamento e atmosfere prog, non potevamo non toccare il prog italiano, quindi PFM, quindi La carrozza di Hans. Un saluto a Cinzia Di Felice, grazie per essere stata qui con noi. Grazie mille. Ciao. La cassetta sale e va.